Non mi sembra che lo abbia notato nessuno, ma il voto di mercoledì scorso, quello con cui il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato a schiacciante maggioranza l'intervento in guerra, è stato il primo voto di questo genere espresso da un Parlamento italiano. Lo Statuto Albertino, quello che disciplinava la materia per gran parte della nostra storia unitaria, riservava qualsiasi decisione in merito al re e ai suoi ministri, imponendogli all'articolo 5 il solo obbligo di darne notizia alle Camere, tosto che l'interesse e la sicurezza dello Stato il permettano. E non mi risulta che questa condizione, nell'arco di tempo che va dal 1860 al 1946, si sia mai verificata. In tempi più recenti, gli interventi nella guerra del Golfo in Kosovo non hanno richiesto una delibera vera e propria perché si inquadravano in un sistema già dato di alleanze ed erano posti formalmente sotto l'egida ONU. Abbiamo dovuto aspettare l'alba di questo ventunesimo secolo perché i rappresentanti del popolo italiano si prendessero la soddisfazione di decidere l'invio delle truppe contro qualcuno, anche se, non vigendo uno stato di guerra dichiarata, non hanno potuto precisare contro chi. Lo hanno fatto comunque nel modo peggiore. Non è il caso di credere a quanti hanno parlato di giorno solenne, di passaggio storico, di una prova di maturità, intelligenza politica e di rara devozione all'interesse nazionale. La decisione sarà stata anche storica, ma era già stata presa altrove e nessuno degli intervenuti aveva la minima possibilità di contestarla. L'unico problema interessante per le forze politiche presenti in aula era soprattutto quello di ostentare in qualche modo una propria identità nel momento in cui decidevano di confonderla in una manifestazione comune d'assenso. Onde la trovata finale di votare su due mozioni diverse ma unificate da un identico dispositivo, in cui si approvano, letteralmente, le comunicazioni rese in data odierna dal governo sull'evoluzione della crisi internazionale conseguente agli attentati terroristici dell'11 settembre in danno degli Stati Uniti d'America e le iniziative che da essi esplicitamente conseguono per il ripristino della legalità internazionale. Che è una formula, ammetterete, sibillina e abbastanza ipocrita, che fa di una decisione liberamente presa la conseguenza obbligata di un'azione altrui. Come se il problema non fosse quello di come rispondere agli attentati, ma soltanto quello se rispondere o no. Entrambi gli schieramenti, in definitiva, hanno dato per scontato il principio per cui a quelle azioni si poteva reagire esclusivamente con la guerra. È la stessa logica, è assolutamente la stessa logica in base alla quale è stato possibile accusare di intelligenza con il nemico i 67 tra deputati e senatori che hanno votato contro. I quali, anche a prescindere dalle motivazioni dei singoli e dei gruppi, hanno se non altro risparmiato al Parlamento l'ignominia dell'unanimità. Unanimità che possano pensarne i capoccia del governo e dell'opposizione non è un valore democratico. E non garantisce mai nulla, se non fosse la volontà di non tener conto delle diverse opzioni presenti nel corpo sociale. Sulle decisioni importanti, in democrazia, si è soliti dividersi. In caso contrario, è probabile che la scelta sia stata in un modo o nell'altro obbligata. E quando si dà la parola alle armi, naturalmente si finisce con lo scoprire che gran parte delle scelte sono obbligate. E la larghissima maggioranza del voto di mercoledì scorso ci insegna che comunque andranno a finire le cose e la guerra ha già cominciato a produrre i suoi danni.